ne patro sono arresi. Dai sobborghi, dai sobborghi, dai sobborghi, violentini. Dai sobborghi, dai sobborghi, dai sobborghi, violentini. L'unità è la loro forza, è la strada il loro credo, contro i fasci la loro rabbia, sopra i muri il loro nome. Dai sobborghi, dai sobborghi, dai sobborghi, violentini. Dai sobborghi, dai sobborghi, dai sobborghi, violentini. Dai sobborghi, violentini. Dai sobborghi fiorentini, Cine Pac sono arrivati. Dai sobborghi fiorentini, Cine Pac non sono arresi. Dai sobborghi, dai sobborghi, dai sobborghi fiorentini. 50ª puntata di Passaggio a Nord-Ovest, seconda parte dell'intervista agli occupanti di Valle Corsica. Ricordiamo appunto Passaggio al Nord-Ovest alle 13 su Radio Wombat, che ascoltate insieme al sito wombat.noblogs.org, alle ore 13 il lunedì in diretta, le repliche il martedì alle 15.30, il mercoledì alle 18 e il venerdì sempre alle 15.30, e chiaramente anche i podcast di Passaggio al Nord-Ovest, come podcast di tutte le trasmissioni, li potete ascoltare e o scaricare dal sito di Radio Wombat, wombat.noblogs.org. Ma prima della seconda parte dell'intervista agli occupanti a Valle Corsica, un appuntamento della rete SET nazionale, in questo caso organizzato dal nodo SET fiorentino. Ricordiamo la rete SET South Europe Against Touristification, sostanzialmente i vari nodi che nelle singole città si battono contro la turistificazione e la gentrificazione. Quindi un incontro nazionale si terrà proprio a Firenze, con in tre luoghi diversi, cioè la facoltà di architettura, il centro sociale autogestito Next Emerson, la polveriera Spazio Comune. Vediamo una lettura, seppur sintetica, del programma. Appunto, inizio venerdì 1 marzo con presidio la mattina davanti alla città metropolitana contro la vendita di Mondeggio Verne Comune. In seguito il pomeriggio un prologo itinerante nel centro storico, da Santa Maria Novella a Sant'Ambrogio, e successivamente la presentazione del convegno alla Scuola di Architettura all'Università degli Studi di Firenze. Giorno successivo, sabato 2 marzo, tutto al CS Next Emerson, via di Bellagio 15, nella zona Castello, con due tavoli di discussione dei nodi SET nazionali. Il tavolo 1 è l'abitare e la turistificazione, mentre il tavolo 2 la dimensione territoriale. Parallele, quindi durante gli stessi orari e nello stesso luogo, cioè CSA Next Emerson, anche due laboratori che appunto affiancheranno i tavoli di discussione, e saranno uno sul subvertising urbano contro la turistificazione, e l'altro laboratorio di Maschi, e a seguire l'assemblea plenaria. Domenica 3 marzo incontro la mattina alle 10 alla polveriera per ridefinire tutto quello che è stato preparato il giorno precedente, e successivamente nel pomeriggio il carnevale delle autogestioni. Tutto questo appunto 1, 2 e 3 marzo. E andiamo a sentirci la seconda parte dell'intervista agli abitanti e occupanti di Corsica 81. Ecco, a me è sembrato un'altra cosa interessante rispetto a quello che avete detto fino ad ora, cioè il rovesciamento di senso della parola degrado. Sì, indubbiamente è una questione, a mio parere, aperta ed interessante, perché il degrado, come insomma tutti sappiamo, oggi come parola e come retorica ha una funzione ben precisa, che induce a un securitarismo, a una repressione, secondo me, proprio di quella che è l'atteggiamento quotidiano del rapporto col territorio, cioè di come si vive la città. Cioè la retorica del degrado sta uccidendo tutta una serie di forme di socialità e di vita, si vede banalmente nelle piazze del centro come Santo Spirito, Sant'Ambrogio, 15 anni fa Santa Croce, che con la scusa del degrado si sta andando a uccidere dei luoghi di aggregazione del tessuto sociale. E il ribaltamento è interessante, se si vuole, proprio perché noi si parte da una zona che in un certo senso è più o meno una zona degradata, perché questa porzione di via in fondo a Viale Corsica essendo chiusa e avendo questo parcheggio enorme in cui è situata l'area Hani, ovviamente è anche un fulcro di movimenti strani, tipo lo spaccio o cose del genere, che so, boh, dal nostro punto di vista sono il vero degrado di questa zona, un degrado indotto anche da quello che è l'abbandono e uno scarsissimo controllo rispetto al territorio, quando se si deve andare a controllare, tipo noi che siamo appunto gli occupanti pericolosi, la polizia non si fa nessun problema. Anche questo è un paradosso abbastanza strano. Ci sono presidi di Digos che pullulano per via Le Corsica e ignorano completamente il fatto che ci possa essere qualche giro di spaccio che si incontra a fare chissà cosa la sera nel parcheggio. E a livello di degrado si sta cercando anche proprio di ribaltare in questo senso, perché anche quei lavori di mutazione di cui parlava prima l'altro ragazzo sulla zona dell'area Hani e dintorni, probabilmente a livello mediatico si possa considerare degrado, perché magari una bacheca autocostruita, l'area Hani autogestita o abusiva, come la chiama qualcuno, possono essere degrado per loro, per noi non lo sono, e viceversa. Come si può comunque considerare degrado, dal mio punto di vista, sarebbe anzi giusto ribaltare questo concetto rispetto al fatto che il vero degrado è l'assenza di rapporti nel territorio, cioè la demolizione di qualunque forma di contatto fra le persone al di fuori di quello che può essere un centro commerciale. E infatti, secondo me, è anche interessante, no? Questo paradosso fra legalità e illegalità, in quanto comunque viene, diciamo, enunciato dalle autorità che l'illegalità è degrado quando è proprio la forma dell'autogestione, quindi il posto occupato, Corsia 81, l'area autogestita, che creano invece un rapporto reale con il quartiere, va realmente, no, a riappropriarsi delle modalità della quotidianità e delle interazioni, degli stili di vita che effettivamente esistono in città. Quindi è molto forzato, no? Questo, ti vengono qua, ti chiamano processi di riqualificazione, quando in realtà questa riqualificazione non esiste, ma sono semplicemente dei piani legali che vanno a distruggere tutto quel substrato invece che è illegale, però crea dei percorsi virtuosi di amicizia e di complicità in quartiere. E ritorniamo un attimo a quello che erano, a quello che era l'inizio dell'intervista, della puntata. Avete fatto la storia di Viale Corsia 81. Ora, che c'è in Viale Corsia 81? Viale Corsia 81, come accennavo prima, appunto è sostanzialmente una comune abitativa che per noi, che dura da 6 anni, appunto dal 2012, da novembre 2012, che per noi anche dal punto di vista della messa in comune è anche stata ed è una grande occasione, perché diciamo dal punto di vista della nostra generazione, che comunque siamo tutti fra i 20 e i 35 anni, è un'occasione per poter impostare la propria vita secondo altre regole rispetto a quelle che la società ci impone, svincolandoci anche solo dall'obbligo di pagare un affitto, dandoci la possibilità di una sperimentazione, che poi è quella che anche si cerca di portare fuori. L'area Hani in questo senso è anche un tentativo, o comunque i progetti che si fa sulla zona più limitrofa all'occupazione sono anche un tentativo di esportazione dell'occupazione, della pratica dell'autogestione più che dell'occupazione. E per noi è questo, e appunto unito ad uno spazio sociale che è luogo sostanzialmente di iniziative pubbliche o comunque di piccole attività, anch'esse autogestite, come tutti gli spazi occupati ospitano da sempre, come nel nostro caso sono in particolare la cineofficina, la biblioteca e la serigrafia, attività che appunto sono gratuite, libere, la partecipazione non prevede fini di profitto o di lucro, ma semplicemente la messa in comune dei saperi e degli strumenti pratici per la realizzazione di un qualcosa. Ci sentiamo un altro pezzo musicale, Luciano Finardi, saluteremo il signor padrone. quindi un processo di ristrutturazione della zona che prevede anche l'utilizzo in forma consumistica, diciamo, di grandi spazi, in particolare l'area dell'ex panificio militare, su cui da tempo, da lunga data, si erano addensate le attenzioni e le proteste da parte di un comitato di quartiere, ma che appunto è probabile un epilogo non aderente a quelli che sono i reali bisogni degli abitanti. Sì, infatti da molto tempo che viene visto, no, l'area dell'ex panificio militare come un'area molto allettante. Da qui infatti sono mossi vari imprenditori, tra cui una grande GDO quale l'Esselunga, che vuole mettere le mani su, anzi ha messo le mani su quella porzione, su quell'immobile. E un'area molto molto ampia, molto grande, che verrà infatti riqualificata tra virgolette, costruendoci un ulteriore centro commerciale, quindi a solo uso economico e di profitto. E in questo caso volevamo anche precisare che la zona di Rifredi, dopo sia gli abbattimenti degli alberi e il futuro progetto anche che ci sarà nell'area Cani, è praticamente un'area appiattita, cementificata in tutti i suoi lati. E quindi volevamo dire che come abitanti anche dell'occupazione di Viale Corsia, in qualche modo vorremmo promuovere un percorso o cercare comunque di indirizzare quell'area, cercando di portare avanti alcuni discorsi sul verde pubblico, quindi cercare di far capire anche a tutti gli abitanti che quell'area sarebbe in qualche modo, dovrebbe essere destinata a un giardino, a un qualcosa di verde che può essere abitato, può essere transitato e può vivere di tante esperienze comunque di legame, di rapporto. Sì, diciamo, cioè, che sul panificio militare la cosa semplice da dire è che se devono intervenire in qualche modo, chiunque intervenga, l'unica soluzione utile agli abitanti è un'area verde. Un centro commerciale in più non serve a nessuno, se non strettamente Esselunga, forse per accentrare i suoi punti vendita, ma non è di sicuro una cosa che interessa agli abitanti. E comunque sia, non è un, per noi, tornando a parlare di degrado, non è una riqualificazione quella, cioè, non, chiaramente è un'enorme struttura abbandonata, fatiscente, prima o poi rollerà, non può rimanere così, ma non può neanche diventare un supermercato. Viale Corsia resiste, c'è ancora? Quali sono i progetti futuri rispetto all'occupazione e anche rispetto ai quartieri? Chiaramente, come Corsia, un'occupazione continuerà a vivere in questo quartiere, a cercare comunque di promuovere a costruire percorsi di lotta che in qualche modo vanno a contrastare questo processo enorme di turistificazione nella zona. Come abbiamo già detto, Viale Corsia è uno spazio sociale, tutte le attività che vengono svolte al suo interno vivano intanto come appuntamento tutti i giovedì dalle 4 alle 9 siamo aperti, e con questo cerchiamo comunque di aprire le porte di questo spazio per creare dei nuovi legami, per creare delle relazioni che in qualche modo vanno a costruire nuovi percorsi, nuove interazioni con gli abitanti della via. Tra i progetti futuri possiamo anche inserire appunto il ragionamento che ci siamo fatti noi è che sull'area Cani la maggior valorizzazione e quindi ulteriori migliorie a quello che è uno spazio autogestito e quindi maggiore efficienza dell'autogestione, secondo noi, è la prima arma contro la minaccia dell'autogestione stessa, all'autogestione stessa. E su Viale Corsi 81, lo stabile occupato, uno degli imminenti progetti che si farà nelle prossime settimane è la realizzazione di una cucina interna allo spazio sociale, che appunto vuole anche essere uno strumento di contatto con il territorio, appunto per quella che è la dinamica pubblica dello stare insieme. Si faranno tra i nostri progetti ci sono pranzi di quartiere in piazza, nello spazio occupato, a qualche circolo, con la volontà appunto di favorire maggiori punti di incontro, maggiori momenti per conoscersi e insieme discutere e trovare le nostre soluzioni alle trasformazioni in atto. E ci stiamo dotando di maggiori strumenti per conoscere nuove persone che abbiano la volontà di opporsi ai processi in corso sul territorio. Parlando di questa iniziativa, il 23 di febbraio, ce la puoi ribadire e magari un po' più articolata? Il 23 febbraio organizzeremo questa giornata con il Comitato Abitanti Viale Corsica, una giornata qua nella nostra occupazione per diciamo sostenere qui in Viale Corsia, per sostenere le spese legali delle 10 denunce molto gravi, quali resistenza, oltraggio, interruzione pubblico servizio e lesioni, che sono state affibbiate a 10 persone appartenenti comunque alla nostra realtà. In questo senso, quindi il 23 febbraio, per la contestazione contro gli abbattimenti dei 49 ippocastani della via. In questa giornata, che partirà dalle 10:30 della mattina, ci sarà un primo alle 10 faremo un briefing su quelle che saranno gli interventi che vogliamo realizzare in quartieri, delle piccole costruzioni o installazioni artistiche. Proseguirà con un pranzo solidale, quindi un benefit, e successivamente andremo sia a realizzare che a installarle nella via. È un piccolo contributo, però secondo noi molto significativo, perché andrà in qualche modo a mostrare quello che il comitato, quello che gli abitanti del quartiere vogliono per questa zona. Vogliono autogestirlo, vogliono avere voce in capitolo su quella che è la nostra città, il nostro posto. Siamo a fine dell'intervista. Volete dire qualcosa in particolare? Sì, noi siamo contenti che ci sia interesse rispetto al processo appunto in atto su questo territorio, e abbiamo anche diciamo dei riscontri positivi in senso di partecipazione, perché anche i progetti a cui abbiamo accennato che si stanno facendo sull'area Cani, di appunto partecipazione collettiva per la ridefinizione dell'ambiente circostante degli spazi che viviamo, oltre a essere stato molto interessante per la fantasia che si è avuto nel costruirlo insieme agli abitanti e il protagonismo che a mio parere non è scontato, ci teniamo anche a ringraziare il collettivo di architettura che in questo senso ci ha dato una grossa mano, inserendo con la loro diciamo serietà e con i loro strumenti tecnici favorendo diciamo quella è la partecipazione degli abitanti del territorio a questo progetto, perché il collettivo si è speso nell'organizzazione di un momento di progettazione condivisa, che è stato un momento super interessante di messa in comune di idee e di appunto progettazione rispetto alla realizzabilità di queste cose. Infatti sono progetti che diciamo sia dal punto di vista della funzionalità e artistici non sono non sono scontati e sono molto carini, e questo grazie a loro è un in più che si permette di avere, grazie appunto alla messa a disposizione di strumenti tecnici e pratici di questi ragazzi. Quindi, insomma, vogliamo anche invitare tutti a partecipare a questa iniziativa, tutti e tutte. Nulla, quindi ci vediamo il 23 mattina per chiunque voglia assistere a questa bella giornata, voglia partecipare a questa giornata. Si può concludere, non tutta la città è in vendita. Giustissimo, non tutta la città è in vendita. Sì. Noi resistiamo e lotteremo. Finisce qui questa intervista agli occupanti di Viale Corsia. Passaggio a nord-ovest, alla prossima. Grazie, alla prossima. Grazie, ciao.